Erano due tipi nessuno, ma parti uguali con simili cuori inversi, ma perduti nel vento a baciarsi, dopo essersi lasciati a caso sulla panca occhi tersi. Occhi tersi, occhi tersi. Lui era un tipo panchettone, fino calzone, lui stra strappato e toppone, cristino mezzo, latino mascalzone, vagabondo gira nazione. Lei perse in una pillola di fine percezione, colore del suo colore tra gucce e squallore, distrazione di birra e sudore, in un lampo fu amore, ma nel mezzo del cammino di quel parco, tra petali cadendo, da alberi in fiore, rifiorendo il loro nome, piovendo, loro piovendo, profumo e squallore, piovendo, profumo. Lui preparando la stagna e morfina, lei rossetto e mini, anni 69, dolce e a lui vicina, e a lui vicina, lui preparando la stagna e morfina. Lei rossetto e mini, anni 69, dolce a lui vicina, è a lui vicina. Ma la storia era la madre di lui, pare famiglia importante, pare che forte parere contro di lei ci fosse, che aveva modi scortesi e la nazione diversa e distante, ma irritante l'eroina in lei la rendeva guerriera e fiera, mentre lui per timidezza abbassava la testa e la visiera. Ma per una notte bruciarono tipo supernova nella sera, ma per una notte bruciarono tipo supernova nella sera. Lei famiglia povera, tutto dentro all'educazione precisa, e lei precisa mordeva lui come una vipera.